Variante 1, nessuno, 100 Milan. Nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera. Siamo qui, cari ascoltatori, alle 9:08. Ci siamo con voi fino alle 11. Anche oggi saremo in onda, anche domani, per tenervi compagnia in questa vigilia di Natale. E insieme all'Alpino in regia, la nostra redazione da Lorenzo Nespoli, Mira Lucchetti e Elisabetta Fusconi, l'aveva promesso. L'aveva promesso ed è tornato prima di Natale il comandante Mario Calabresi. Eccolo qua, buongiorno. Buongiorno a tutti. È venuto anche per celebrare questa Juventus scoppiettante. Questa, eh? Vabbè. Maledetto me che ti ho detto vengo. Hai fatto male. Però i tuoi calcoli. Devo dire una cosa, sì. oggi è mercoledì, giusto? Questa è l'inno della Fiorentina, eh. Pensa a Firenze come sono. Tu sai che a con la Fiorentina non avete dei rapporti eccezionali come tifoserie. Senti, no, volevo parlarti d'altro. Ah, ecco. Ieri ero in posta. Vuol parlare d'altro, ecco. No, vai. Non sarei dovuto venire oggi perché ieri ero in posta. Sì? E quello della posta a un certo punto mi chiede, dovevo compilare una cosa, mi chiede e poi mi dice: ah, ma l'ho riconosciuta dalla voce, lei è quello del venerdì di Milan. Ecco, sì, una carriera a dirigere il mondo e poi lei è quello del venerdì di Milan, che sembra venerdì gnocchi, ti ricordi? E poi va bene, gnocchi, giovedì, è vero, porca miseria, mi sbaglio sempre, giovedì gnocchi. 9 minuti, va bene. Bene, ci siamo in una puntata in cui vogliamo dire tante cose con... Vai, iniziamo sempre da qui. I will not be easy and it will not be easy. Duro. Senti come iniziamo con un rock duro, caro Mario. Allora, ci sono tante tematiche. Devo dire che il tema dei vaccini è quello che ancora prende le prime pagine dei giornali. Ti chiedo questa cosa. Ieri avevamo questo dottor Struzzo, italiano, che però sta in Inghilterra e ci ha spiegato che non è per niente facile la questione dei vaccini, no? È complicatissima, anzi, oggi la stampa lo spiega bene, arriva la dose, che in realtà la fiala contiene 5 dosi, vanno scongelate, vanno girate 10 volte, va fatta una pressione, va preso col lago sterile, e poi se ci sono 5 dosi vuol dire che devi prendere 5 appuntamenti con un calendario preciso, le persone che devono arrivare, c'è quello che ti dice mi sono dimenticato, insomma, saremo pronti secondo te? Non ho la minima idea. Allora, se tu mi devi dire se saremo pronti, penso che ci saranno un sacco di difficoltà. Penso che ci saranno un sacco di difficoltà, non soltanto per gli aspetti tecnici che dici tu, ma anche per gli aspetti organizzativi, di distribuzione. Cioè, nel senso, tu prendi tutte le difficoltà che ne abbiamo visto quest'anno, le metti in fila e... cosa immaginiamo, che dal 1 gennaio per miracolo siamo un altro paese e improvvisamente... la sanità centrale, le sanità regionali, dico centrale perché in questo caso è in capo allo Stato la distribuzione del vaccino, non è come tutto quello che abbiamo visto che era demandato alle regioni. Sì. E quindi tu pensi che ci sarà un miracolo, che saremo delle altre persone, che il sistema sarà perfettamente oliato e organizzato? No, per carità. Ci saranno dei grandissimi gesti di dedizione, generosità di alcuni, ci sarà una cronica disorganizzazione, ci saranno quei processi burocratici allucinanti da un'altra parte, in alcuni posti andrà meglio, in alcuni posti andrà meno bene. Io credo che se dobbiamo battezzare il 2021 adesso con una parola io credo che sarà l'anno, dovrà essere l'anno in cui è richiesta tanta pazienza. Sì. Quest'anno è stata resistenza, l'anno prossimo è pazienza. Perché non è che c'è un pulsante che noi schiacciamo e torneremo a un altro tipo di vita. Partiranno alcune cose, freneranno, andremo avanti e indietro, sarà una cosa a macchia di leopardo, alcune cose succederanno, altre no. Dovremmo convivere ancora con col virus e con la malattia, perché noi andiamo avanti, parliamo, ci preoccupiamo, giustamente guardiamo al futuro. Poi però vedi, 600 morti ogni giorno, Ed è col tempo è diventato, all'inizio erano dei fatti eccezionali, sai che uno che conosco ha avuto, è malato, è morto, adesso cioè le persone malate anche in maniera grave sono sempre più spesso nella cerchia dei parenti, degli amici. Sì, cioè, tra l'altro, scusami, sulla cosa dei vaccini, ieri abbiamo avuto il professor Bucci, che è biologo, che spesso scrive, anzi quasi tutti i giorni scrive sul Foglio, e lui ci ha spiegato bene come sia giusto fare il vaccino anche per un calcolo di probabilità. Pensa, lui ci ha spiegato che in America succede che l'influenza stagionale porta a un rischio di mortalità nelle persone di una persona su 5.000, e quindi l'atteggiamento psicologico potrebbe essere dire: beh, ma perché devo essere proprio io quello di 5.000? Non mi vaccino. Ma se in realtà uno si vaccina, l'evento possibile avverso da vaccino è uno su 1.000.000, quindi il calcolo delle probabilità porta proprio razionalmente a dire: rischio di meno se mi vaccino. Ma sentiamolo, Bucci, te lo faccio risentire. La probabilità di avere danni dal vaccino è infinitamente più piccola della probabilità di avere danni dal virus. Di conseguenza, diciamo, se anche faccio un bilancio costi e benefici, già dovrei trarre una conclusione. Però questa cosa non entra molto nella testa dei Novax, Mario. Ma senti, cosa ti devo dire? Cioè, io credo intanto che tutti quelli che si vogliono bene si vaccineranno, o che vogliono bene ai loro parenti, ai loro familiari. Io non ho il minimo dubbio su questo. Temo che il mio turno di vaccinarmi arriverà non tanto presto, avendo 50 anni e essendo sano, spesso faccio le corna, tocco da tutte le parti, perché... prima giustamente saranno i più anziani, gli operatori sanitari, le persone che lavorano a stretto contatto col pubblico. Però potrei dire che siccome il venerdì vengo da te, è una cosa pubblica, ci facciamo vaccinare. Va bene, però io non ho problemi. Molti scrivono anche a me: ma perché tu ti vaccinerai, farai vaccinare i figli? Ma che problema c'è? Li ho fatti vaccinare per tutte le altre vaccinazioni, non vedo che differenza ci sia. Poi succederanno delle cose, ne abbiamo già parlato. Se i voli aerei, gli stati stranieri prenderanno soltanto chi è vaccinato. Sì. Perché non, cioè a un certo punto la gente inizierà a dire: ma non è che possiamo continuare all'infinito con questi morti, con questa pandemia. Mario, senti, noi abbiamo chiamato al volo, lo ringraziamo perché abbiamo visto questa notizia oggi sui giornali, il Corriere della Sera, da ampio spazio. 500 famiglie chiedono al governo di essere risarcite. È una vicenda che è nata soprattutto a Bergamo con un comitato Noi Denunceremo, di cui abbiamo già sentito i rappresentanti. Il presidente Luca Fusco, buongiorno dottor Calabresi. Allora, buongiorno. Fusco, voi adesso andate a Roma in sede civile a chiedere, voi e tante altre famiglie, sulla base di quale presupposto, ci può spiegare, chiedete dei danni? Noi questa domanda ce la siamo fatta un paio di mesi fa. Abbiamo riscontrato che in effetti il discorso della gestione della pandemia dal punto di vista sociale e economico è stato devastante. La mancata chiusura di Alzano e Nembro, sempre quella fatidica mancata chiusura, ha causato sì tanti morti, ma problemi sociali e economici mostruosi. Allora ci siamo consultati con i nostri legali ci hanno fatto presente che ci sarebbe stata la possibilità di agire anche in sede civile oltre che penale. Esattamente. Per cui abbiamo messo al corrente i nostri iscritti di questa possibilità, abbiamo lasciato loro la libertà di rivolgersi ai loro avvocati, e se non avessero avuto avvocati avevamo noi degli avvocati di riferimento del comitato per agire. Hanno deciso di agire, perché ci troviamo di fronte davvero a una spocchia, un'arroganza nelle risposte da parte di regione e governo che veramente lasciano basiti. Sì. Cioè abbiamo situazioni di famiglie che hanno perso il capo famiglia, è rimasta la moglie vedova con 3 bambini in età scolare e qui si parla di ristori di 1000 euro o di 1500 euro per... Le attività, ecco. Io non lo so, Mario Calabresi, che ne pensi? Io credo che prima o poi ci saremmo arrivati a questo punto, cioè delle richieste anche di danni in sede civile. È un tema molto delicato, bisogna accertare le eventuali responsabilità, capire. Tu cosa ne pensi, Mario? Cioè, bisogna riuscire a capire, a dimostrare che c'è una colpa e c'è una responsabilità, perché sì. in questo caso diciamo una cosa, non c'è la cosa che magari è chiara, cioè hanno sbagliato un intervento operatorio, la morte poteva essere evitata. Certo, possiamo dire che potevamo essere più preparati, perché penso che questo sia uno dei temi, sì. Cioè la mancanza del piano non è che non era aggiornato. Però il virus è arrivato e ha colpito tutto il mondo, cioè era un fatto nuovo, non siamo in presenza di il danno operatorio, il danno perché non hai capito una malattia. È un tema molto, forse l'impreparazione, distinguere il tema della situazione delle persone è un tema reale, riuscire a sostenere, a dimostrare, perché allora si potrebbe fare in tutto il mondo, pensate negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, sì. E vediamo, ma infatti Fusco, su quale presupposto? Penso che questo piano famoso pandemico che non era aggiornato... Certo, l'assenza del piano pandemico diciamo che è l'araba fenice che rinasce dalle proprie ceneri, però per quanto riguarda la causa civile parte da un presupposto molto molto chiaro. Dal 24 febbraio il Comitato Tecnico Scientifico, l'Istituto Superiore di Sanità, con i verbali che siamo riusciti a desecretare, dice al governo e alla regione che quella zona va chiusa. Va chiusa perché è un focolaio non più sotto controllo. Per cui in effetti chiudendo quella zona si sarebbe potuto contenere. Quindi voi dite che poi spettasse al governo, spettasse alla regione, noi siamo oltremodo garantisti. Cioè voglio dire, siccome non siamo in grado, come diceva il dottor Calabresi, di dimostrare nulla, noi esponiamo i fatti. Dopodiché sarà un giudice che deciderà, è il suo mestiere, per cui ci rimettiamo assolutamente alla magistratura. Però facciamo presente che questa situazione è una situazione che ha causato dei danni sociali che ci porteremo dietro per i prossimi 20 anni. Cioè una cosa questo veramente... Posso chiederle un'altra cosa? Ma sì. Le persone che lei sta patrocinando, che sì. portano avanti sì. questa causa, sono della zona di Nembro e Alzano, della Bergamasca, o sono di tutta Italia? No, guardi dottore, stanno arrivando da Napoli, stanno arrivando dalla Puglia, stanno arrivando dalla Sardegna, ma l'origine del fatto, se lei ci pensa... è sempre Nembro Alzano, cioè la mancata chiusura di una piccolissima parte di territorio lombardo a poi 15 giorni dopo, perché non dimentichiamoci che noi lombardi per quei 15 giorni certo. abbiamo viaggiato, preso certo. aerei, certo. siamo andati al ristorante, abbiamo giocato a calcetto, ecco, la mancata chiusura di una piccolissima parte, parliamo di 25.000 persone, ha causato poi la chiusura di tutta la Lombardia e poi la chiusura di tutta Italia. No, ma su questo vedremo, Luca Fusco. Intanto grazie, vedremo come procederà questa causa civile. Buon Natale. Buon lavoro e buon Natale a tutti. Grazie. Si possa. Arrivederci, grazie. E caro Mario Calabresi, ma qua ci sono tante tematiche. Io ho chiamato una persona che conosci molto bene, anche noi ne siamo amici ogni tanto, è con noi il vice direttore di Repubblica, Sergio Rizzo. Buongiorno Sergio e bentornato. Buongiorno, buongiorno. Tanto fatemi salutare Mario perché diciamo con cui ho condiviso un'esperienza troppo breve, troppo breve. La Repubblica. Eccoci qua. Allora, Sergio, tra l'altro, l'ultimo libro che ha scritto è con Tito Boeri, era Riprendiamoci lo Stato. Beh, intanto oggi leggevo su Repubblica, sai che questa secondo me è la notizia del giorno, questo sondaggio Demos di Ilvo Diamanti, per la paura, per i timori, gli italiani credono alle istituzioni, cioè non si riscontra un gradimento delle istituzioni come in questo 2020. Questo certifica Ilvo Diamanti. Evidentemente gli italiani nei momenti di difficoltà si riconoscono e si ritrovano uniti più che mai. Sergio Rizzo, ti ha colpito? Quanti sondaggi ho visto che mettono al primo posto i carabinieri o la Banca d'Italia, ma sono cose secondo me periodiche, non voglio dire. Poi, per carità, cioè, il lavoro di Ivo è fantastico, lui sono anni che scandaglia questi aspetti della società. Detto questo, io credo che, diciamo, ci sia anche un po' di non soltanto la fiducia nelle istituzioni, ma anche il suo contrario, no? Perché abbiamo visto che in questa fase di pandemia la pubblica amministrazione e i dipendenti pubblici non hanno dato la risposta che ci si aspettava, diciamo la verità, no? Cioè, noi abbiamo avuto delle situazioni diametralmente opposte, degli eroismi negli ospedali, cioè dove una parte della pubblica amministrazione veramente si è comportata in modo assolutamente con abnegazione e con intensità veramente proprio di partecipazione al dolore, e altri pezzi della pubblica amministrazione Adesso arriva la ministra Dadone, ieri in un'intervista al Messaggero. Io vorrei introdurla così, questa questione. Alla ministra Dadone ha detto al Messaggero: ora ha buttato lì l'idea di dire i dipendenti pubblici che non producono abbastanza li riportiamo al lavoro, che detta così sembra una punizione, no, Mario Calabresi? Cioè, sembra dire ascolta, torna al posto di lavoro come se fosse la punizione, no? No, ma allora vuol dire che è possibile. Quello che diceva Sergio, ci sono davvero luci e ombre, cose completamente diverse, perché se noi pensiamo alla sanità, come diceva Sergio, oppure pensiamo anche alla scuola, alla parte dell'istruzione, perché gli insegnanti hanno dimostrato una grande capacità di adattarsi a situazioni completamente diverse, a imparare come fare la didattica a distanza, usare le piattaforme, e un po' a scuola, un po' a casa. E quindi da questo punto di vista è vero che ci sono pezzi di amministrazione pubblica che non hanno lavorato, hanno preso lo stipendio, sono stati a casa, non hanno lavorato. Poi però mi colpisce una cosa: la ministra annuncia questa cosa qui e dice che entro il 31 gennaio ogni amministrazione dovrà fare un report sulla situazione e quindi stabilire delle regole, cioè entro il 31 gennaio. Sostanzialmente questo report sulle regole arriva dopo un anno dall'inizio della pandemia, cioè dopo un anno la ministra della pubblica amministrazione ci dice che provano a trovare delle linee organizzative per lo smart working. Sì, ma poi voglio dire, Sergio Rizzo ha pubblicato non so quanti articoli e libri su come si valuta all'interno della pubblica amministrazione. Non so, c'è uno strumento valido, Sergio, per capire, allora, non so, quante pratiche evade una persona all'anagrafe? Così dobbiamo valutare. Ma infatti quello è sbagliato, no? Cioè, il problema è che noi abbiamo sempre pensato di valutare il lavoro dei dipendenti pubblici quantitativamente, ma non è quello il punto. Il punto è la qualità del lavoro dei dipendenti pubblici. Infatti le autovalutazioni, le autovalutazioni, perché normalmente i dirigenti vengono autovalutati, no? Cioè, si valutano da se stessi, no? Normalmente, no? Però anche le valutazioni che vengono fatte, diciamo, dagli organismi indipendenti, no? Che sono stati istituiti negli anni, eccetera, prendono sempre in considerazione soltanto la quantità di pratiche evase, per dirne una, no? e non il livello di soddisfazione dei cittadini, che è una cosa fondamentale, perché io voglio sapere dal cittadino se il mio servizio è un servizio che effettivamente raggiunge l'obiettivo per cui per il lavoratore dipendente pubblico lo eroga, no? Ma se noi non introduciamo degli elementi che consentono ai cittadini in qualche modo di valutare la qualità dei servizi, e beh, noi continueremo a girare in tondo, a fare promesse. Sì, ma poi si può fare, cioè, perché subito si sono alzati i sindacati a dire non si deve fare questa cosa. Ma tutto si può fare, no? L'importante è volerlo. Adesso io francamente ho qualche dubbio che, diciamo, che ci si riesca, no? L'ha detto anche Mario. Ma insomma, ma ti pare possibile che con quello che è successo dopo un anno, no, finalmente uno si sveglia e dice forse sarebbe il caso di vedere se questi effettivamente producono... Un anno dopo! Quello... certo, è una follia! Cioè, una follia, hanno avuto tutto il tempo per... E questo mi ricorda un po' la discussione sui banchi con le rotelle. Sì, sì. No? E sono arrivati alla fine, poi qualcuno dice che non servivano, che non servono. Ma no, ma ti pare possibile che quando a un certo punto è venuta fuori questa discussione sui banchi e rotelle per giustificare la loro utilità, ho sentito un importante esponente del Movimento 5 Stelle dichiarare... Beh, ma vi rendete conto, finalmente i ragazzi si potranno mettere in circolo in classe, no? Cioè, come se quello fosse il problema, sì, no? Sì. Che ti fa capire come ci sia un abisso tra la realtà dei fatti, della vita delle persone e certi processi decisionari. Diciamo che sono state prese le cose un po' in ritardo. Per esempio a Milano, e vorrei capire, la ripresa delle scuole verrà fatta, si spera, anche perché si è deciso di dire i negozi, non quelli di alimentari, partiranno alle 10:15, apriranno alle 10:30. Chiedo a entrambi, Mario Calabresi, ci volevano 8 mesi per arrivare a pensare questa cosa di buon senso, io credo. Mi fai una domanda scontata, questa cosa qua era evidente. Abbiamo avuto il miracolo dell'estate per organizzare questo. Il miracolo dell'estate per riorganizzare. Le mie figlie che stanno a casa da mesi, finalmente a gennaio forse torneranno a scaglioni orari, eccetera, quello che si era detto che si doveva fare a settembre. Adesso però, dopo aver fatto alcuni mesi a casa, forse a gennaio appunto si organizzerà questa cosa. Ma... chissà. La gente ha fiducia nello Stato per disperazione, però di fronte a queste cose qui cascano le braccia. Io, caro Sergio Rizzo, ci sarebbe un altro capitolo, ma dacci solo un accenno. Tutti gli anni so che poi tu hai questo compito un po' ingrato di andare a vedere nella manovra finanziaria quello che succede. Già anche quest'anno si parla di mance e mancette, che non cito, perché se cito i soldi per i presepi so già che mi scrivono quelli dell'associazione dei presepi dicendo noi facciamo una cosa fondamentale per la cultura e la storia del paese, e quindi non mi astengo, e già ho citato i presepi, ho già detto troppo. Però anche in questa manovra ci sono le varie mancette elettorali. Ma sai, le mance c'erano già nel testo originario. Ma questo però ha a che fare con un problema di fondo che ha il nostro assetto istituzionale. È chiaro che se tu hai un Parlamento che funziona in quel modo lì, no? Con le navette, Camera, Senato che vanno su e giù continuamente, le leggi che procedono lentissimamente, è evidente che tu hai nel corso dell'anno soltanto due leggi che sicuramente devono andare in porto, e sono la legge di bilancio e il mille proroghe. Certo. Tant'è che già adesso si sta parlando del mille proroghe, che dovrebbe essere approvato all'inizio del prossimo anno, e nel testo del mille proroghe già ci sono altre mancette. Per esempio c'è una cosa sconcertante, che ho sentito proprio questa mattina, cioè rinviano di altri mesi l'aggiornamento delle tariffe autostradali. Ma come, ci hanno fatto una testa grande come un pallone raccontandoci che avrebbero finalmente ridotto le tariffe autostradali, che avrebbero introdotto il price cap, eccetera, eccetera. Adesso scopriamo che nel mille proroghe viene di nuovo rimandata questa cosa. Perché chiaramente quando c'è un rinvio vuol dire che le tariffe devono diminuire. Ma è ovvio. Per cui o si mette mano all'assetto istituzionale in modo serio, cioè diciamo la verità, no? Questo è un paese. Ci sono 3 paesi al mondo che hanno il bicameralismo perfetto, 3, e sono la Svizzera, gli Stati Uniti e l'Italia. Ma sono 3 paesi completamente diversi. Gli Stati Uniti non sono certamente paragonabili all'Italia, è una federazione di stati presidenziale, quindi cioè, la Svizzera ugualmente. Sì. Ma quindi diciamo, o noi prendiamo atto del fatto che questo impianto, un impianto costituzionale immaginato alla fine degli anni 40, sì, sì, sì, oggi va cambiato, va modificato, va modernizzato, o se no andiamo avanti così. Io non mi stupisco dei rubinetti o dei presepi, sinceramente. Ma infatti, quando Sergio Rizzo mi manda, quando mi arriva il libro di Sergio Rizzo, in genere le dediche sono sempre gentilissime. Andiamo avanti, sono un po' sconsolate. Mario mi manda le dediche, come dire, siamo ancora qui. Ma il punto vero è che tutte le volte che si prova a fare qualche cosa in questo paese, poi magicamente c'è la marcia indietro, no? Ora io, diciamo, non è che avessi, come dire, particolare entusiasmo nei confronti di alcuni personaggi politici, diciamo, della scorsa legislatura, però sinceramente quel tipo di riforma costituzionale che poi è stata bocciata dagli italiani, aveva un senso, no? Perché con tutti i difetti che gli si potevano attribuire, ma finalmente si metteva a mano a due cose. Una era questa storia del Senato e della Camera, monocameralismo, il bicameralismo perfetto. Il secondo erano le regioni, perché diciamo la verità, no? Questo è un problema enorme che viene amplificato anche dal fatto che noi abbiamo una tale sovrapposizione e confusione di poteri che poi alla fine non si riesce a decidere mai niente. Paese è fermo, l'Italia è ferma. Se uno guarda i dati del PIL, l'Italia è ferma dal 2001. Guarda caso, da quando è stata approvata la riforma del titolo V, guarda caso. Lo so, dovrà stimolare una riflessione, no? Intanto noi facciamo così, ci fermiamo. L'ascoltatore che dice: non leggo più i libri di Rizzo perché mi arrabbio troppo. No, sbaglia, perché bisogna essere consapevole. Intanto un abbraccio a Sergio Rizzo, caro Mario. Qua iniziamo un attimo con la pubblicità e poi ti voglio parlare delle RSA, il Natale per gli anziani. Ci pensiamo poco, ma quest'anno sarà molto, molto particolare. Uno, nessuno, 100 Milan. Hanno vaccinato già 500.000 persone negli Stati Uniti, ne hanno vaccinate 550.000 in Inghilterra, in due giorni in Canada ne hanno fatte 34.000 e noi stiamo a farci i problemi. Si chiama organizzazione seria. Milan, guarda che la vaccinazione per i minorenni non è prevista e non è neanche consigliata da AIFA. Nuova campagna Dem, abbracciamo un inglese. Vabbè, Mario, ma ti è arrivata la playlist da DJ Lucchet? No. Guarda che no. Siamo veramente una redazione, come dire, di qua qua qua, questo dobbiamo dire. Sì, ma io mi riferivo alla vaccinazione dei minorenni, quelle quelle da fare, obbligatorie. Quindi dico, se ci sarà anche il richiamo per i figli, non che siano contenti di farsi andare a fare un paio di punture, però lo faranno, che dobbiamo fare. E invece le residenze sanitarie per anziani, quante volte ne abbiamo parlato, Mario? A pensare che Natale sarà per i tanti anziani che sono lì, già sarà complicato coi nonni, no? Quelli che stanno nelle case. Un altro Natale di solitudine. Sì. Questo è stato un terribile anno di solitudine per gli anziani, di solitudine per chi è nel RSA, chi anche in tutte le altre strutture, nelle strutture di riabilitazione, nelle lungodegenze. E per tutti quelli che si sono ammalati. Questa malattia porta a una morte in solitudine, senza la possibilità del conforto, non, per tanto tempo non abbiamo avuto i funerali. Cioè, da questo punto di vista, questa qua è veramente una grandissima ferita, questa della solitudine. Eh sì, io voglio salutare, torna con noi Roberto Volpe, presiede l'Unione Regionale Istituti per Anziani della Regione Veneta. Buongiorno. Buongiorno. Ma gestite anche con l'associazione Ancora o Ancora? Ancora. Gestite diverse strutture per anziani. Che Natale sarà nelle residenze sanitarie per anziani quest'anno in particolare? Ma guardi, io credo che sicuramente è un Natale diverso da sempre. Vorrei però dire due cose. La prima, che ho ascoltato le parole di prima riferite alla solitudine, voglio farlo qui pubblicamente perché credo che sia doveroso che i ragazzi e le ragazze che hanno lavorato in questo anno, in questo difficilissimo anno, hanno dato molto di più che il semplice lavoro manuale, perché credo che forse sono più anziani, sono più soli i familiari fuori che gli anziani dentro, perché io posso testimoniare le scene di affetto che hanno avuto anche i tantissimi ragazzi e ragazze nei confronti degli anziani, quindi va fatto un plauso. Questo sì, ragazzi, che anche se lei l'ultima volta quando ci avevamo sentito aveva detto che è difficile trovare personale che è disposto a lavorare. Di quelli che c'erano, certo. Parlo di quelli che c'erano, non di quelli che servirebbero, perché da quando ci siamo sentiti ad oggi la situazione è notevolmente peggiorata, ma è peggiorato soprattutto l'atteggiamento di chi ha la responsabilità nazionale. Guardi, dopo quell'incontro ci sono state tante occasioni e vi ringrazio perché voi ci avete dato una mano ad amplificare la nostra voce, c'è stata tanta attenzione da parte dei vostri colleghi, però da parte delle istituzioni del no, perché Mario Calabresi ci raccontava a Volpe la scorsa volta che si fa fatica a trovare personale che è disposto a lavorare nelle residenze per anziani. Un po', qualcuno ha detto un po' gli stipendi, Volpe ci ha detto non è tanto gli stipendi, è anche un lavoro, come dire, non ambito come primo posto tra i lavoratori del settore. Sì. È ancora così? Sì, no, ma è da così a peggio. E guardate che io credo che questa è una preoccupazione che riguarda anche voi che ci state ascoltando, perché, dottor Milan, una cosa è certa, lei non tornerà bambino come me, ma diventerà sicuramente vecchio. Certo. E quindi è una preoccupazione che dobbiamo pensare tutti, perché noi non siamo nemmeno lontanamente pronti a quello che sarà l'impatto del baby boom degli anni 50 in condizione di vecchiaia e di non autosufficienza. Noi abbiamo strutture vecchie, abbiamo una cultura completa da quella che ci chiede una società civile. Quando si parla che questo non è un lavoro appetibile, non è un lavoro appetibile perché noi non riusciamo neanche ad orientare i ragazzi. Un paese che non ha un liceo sociosanitario, che quindi intercetta i ragazzi subito e le ragazze subito quando sono disorientati fuori dalla scuola dell'obbligo. Vediamo le FIE, sì, e non sanitario. Quegli strumenti dobbiamo togliere. Aspetti che il cellulare un po' ci abbandona, però Mario, potremmo usarlo quasi come slogan, quello nessuno torna bambino. No, no, infatti sei presente, ti ricordi, ricordati che devi morire. Sì, esatto. Questa è più bella. Ricordati, Milan, che finirai in un RSA e magari farai un programma da lì e io parteciperò da un altro. Esatto, però questa cosa che ha detto, per esempio, quello è un luogo dove ci saranno, cioè la cura è un tema su cui, che sarà anche un tema di lavoro del futuro, questo che diceva che manca, questo non lo sapevo, non sapevo ci fosse, che manca un orientamento, quindi un liceo sociosanitario, mi sembra una cosa importante. Sì. Ma manca l'orientamento, voi pensate che noi soli... Ci sono gli istituti tecnici, socioassistenziali in realtà, ci sono gli istituti tecnici. Sono gli istituti tecnici dei servizi sociali, che sa cosa producono? Cosa? Lavorare solo negli asili nido dopo 5 anni di scuola, ma le pare mai possibile? Le pare possibile? È un paese di vecchi, noi abbiamo scuole che formano i bambini per gli asili, per i lavoratori degli asili nido. Ma il problema è sempre quello, non è molto appetibile, diciamo, come lavoro, no Mario? L'idea, purtroppo è così, cioè l'idea di lavorare in una struttura a contatto con gli anziani è un qualcosa che... Non so, io non lo vedo come un lavoro da evitare, per nulla, anzi non, Sarà che io ho una fascinazione per chi ha vissuto tanto, perché penso che siano persone, non lo so, penso quanto tempo ho passato con mia nonna, anche quando era molto anziana, dopo i 90 anni, e quanto gratificante era scambiare con lei, ascoltarla. Io credo che questo invece sia un... Semplicemente non è nelle nostre teste, non se ne parla, non capisci? Perché c'è un po' di rimozione, è più gratificante, certo, fare uno dei migliaia di lavori usuranti che ci sono, stare alla cassa di un supermercato che magari è alienante. I lavori sono tanti lavori sono duri, bisogna trovarci dentro qualche cosa che dia un senso, e secondo me prendersi cura delle persone dà un grande senso. Sì, ma poi insomma il lavoro è tutto nobile, e dico una banalità, ma così è. No, io ringrazio Roberto Volpe, fate un pensiero insomma ai tanti anziani che saranno appunto soli in questo Natale. Molti lo saranno, Mario, l'abbiamo detto, anche banalmente a casa, perché le persone evitano di incrociarsi. Anche mia mamma, che non è a Milano, insomma, non, questo Natale non ci vediamo. Non so quanti anni è che non ci vediamo, che saltiamo un Natale, forse mai, anzi è il primo Natale, perché da 50 anni, prima da bambino, da ragazzo e poi da adulto, comunque con mia mamma lo passavo, la prima volta in 50 anni, quindi è un sicuramente un evento, purtroppo. Caro Mario, noi ci dobbiamo salutare, ti ringraziamo, molti auguri a tutti, torniamo il 7, noi te la tu prendi, fai tante vacanze, eccolo, eh? lo sapevo, ti voglio stuzzicare come gli questo. Statali, forse a Radio 24 dovrebbero preoccuparsi della tua produttività, eh? eccolo là adesso guarda, arriva Leonardo Manera, uno che invece spostati con il lavoro, vabbè, ma l'accolgo sempre così. Mario, un grande abbraccio, ciao a tutti. Se ciao, non l'avete ciao. Fatto, dai, fatti l'autopromozione, c'è gli ultimi due giorni per prendere un libro va sempre bene a Natale, va sempre bene, quindi il tuo libro, il libro che vi consiglia Milan, secondo me è Quello che non ti dicono, di uno che si chiama Mario Calabresi. No, devo dire, dai, l'abbiamo detto e non è piaggeria, è una storia meravigliosa, e quindi ci riporta insomma un po' agli anni bui anche passati, ma compratelo, avete ancora 48 ore per il Natale e poi chissà. Vabbè, grazie Mario, un grande abbraccio. Grazie a voi, andiamo al top. Molti auguri a tutti, ciao ciao. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, 9:47 minuti, Leonardo Manera, buongiorno, il grande indefesso lavoratore, eccolo qui. Bravi, prendetemi in giro, che io invece... prendetemi in giro, perché? In 3 anni e mezzo ho scritto circa 2000 pezzi, 2000... quindi non mille, c'è nessuno. E a 1000 euro a pezzo, fatevi il calcolo, cari non c'è nessuno che lavora più di me in Italia. Ecco, va bene. Affermo questa cosa. Accidenti. In Italia sono quello che lavora più di tutti. Sulla Svizzera abbiamo dei dubbi, ma sull'Italia non c'è dubbio. E allora, caro Manera, conquistati il tuo migliaio di bigliettoni anche oggi. Vai, vai. Allora, siamo quasi alla fine dell'anno, ma soprattutto mancano ormai pochi giorni, 2 giorni di Natale. Mi sembra giusto scrivere la mia bella letterina a Babbo Natale, che magari potrebbe ascoltare Radio 24 ed eventualmente esaudire i miei desideri. Caro Babbo Natale, questo è stato un anno molto difficile per tutti, anche per me è stato così. Però ho cercato di fare il bravo e secondo me mi sono comportato abbastanza bene, perciò se vuoi e hai tempo e se puoi arrivare dal tuo paese anche adesso che viaggiare è difficile, Credo che potresti farmi contento realizzando i miei desideri, però solo dopo aver fatto la frontiera con l'Italia, il tampone o almeno il pungidito, tu e anche le renne casomai il pungizoccolo. Dico che sono stato buono perché sono stato quasi sempre a casa, ho preparato la pizza, ho applaudito quando qualcuno cantava dai balconi anche se cantava malissimo. Ho messo sempre la mascherina quando uscivo da casa e solo qualche volta l'ho tenuta sotto al naso, soprattutto quando dovevo attraversare la strada. Ma sai, Babbo Natale, io sono mio, porto gli occhiali e con la mascherina li ho sempre appannati, perciò ogni volta che attraverso la strada rischio un po' di essere investito, a meno di non abbassare la mascherina. Però lo facevo solo per pochi secondi e poi subito la ritiravo su. Ho smesso di stringere la mano alle persone, ho smesso di baciarle sulla guancia, ho smesso di abbracciarle. Ormai è da tanto tempo che saluto tutti solo a colpi di gomito, mi è venuta anche l'epicondilite, ma non importa. Ho fatto la coda al supermercato attendendo il mio turno, ho disinfettato tutte le confezioni di cibo prima di metterle in frigorifero, non ho mai disinfettato come quest'anno, ho tenuto la mia casa così pulita che se qualche batterio o virus ha la tentazione di entrare, prima però si mette le pattine. Ho ascoltato tutto quello che dicevano i virologi, li ho ascoltati tutti e ogni volta mi sono sentito in colpa, anche senza sapere perché. Perciò quando respiravo e anche adesso quando respiro, cerco di emettere meno fiato possibile. Se posso me lo tengo dentro e lo conservo per quando verranno tempi migliori. Non ho fatto la movida, non ho fatto assembramenti, solo qualche volta ho cercato di fare l'amore, ma quasi sempre da solo e quando proprio non era possibile evitare il contatto con un'altra persona, comunque ho cercato di farlo durare il meno possibile. Forse per questo che i miei rapporti poi non sono andati avanti molto, ma non importa. Non ho fatto la movida perché so che bere aperitivi tutti insieme può essere pericoloso. Solo una volta non ho potuto evitare di bere un chinotto in compagnia, ma secondo me al coronavirus piacciono di più gli aperitivi alcolici e non va invece il virus negli assembramenti di movida dove si beve solo chinotto. Ho scaricato tutte le applicazioni che servivano per fare le riunioni online, quando serviva, e anche durante quelle riunioni mi sono sempre vestito anche con i pantaloni, non rimanendo in mutande o anche senza, come hanno fatto tanti altri. Ora, visto che secondo me mi sono comportato abbastanza bene e sono stato abbastanza buono, se anche per te è così, vorrei che mi portassi il regalo che adesso ti dico. Sai, caro Babbo Natale, tutto questo periodo ha portato a molti di noi tanta solitudine, anche perché durante tutto il 2020 è stato difficile conoscere nuove persone e magari anche se si conoscevano non era proprio come conoscerle in tempi normali. Perciò, da questo punto di vista, è stato molto difficile. Però ho visto che è uscito il nuovo catalogo Postal Market con in copertina Diletta Leotta, che ha un sorriso molto bello e guardare il suo viso potrebbe tenermi compagnia. Tutti noi, quando eravamo ragazzi, eravamo affezionati al catalogo Postal Market e se tu mi portassi quello nuovo, mi sembrerebbe anche di tornare a quando ero più giovane e a quando non c'era ancora il coronavirus. Ecco, ho solo questo piccolo desiderio e sono sicuro che per te non sarebbe difficile farmi contento. Grazie per aver letto la mia letterina, buon viaggio e naturalmente buon Natale. Ah, chissà cosa penserà Melania adesso dalla Casa Bianca. Chissà, gelosie tra donne. Vuoi il catalogo? Vuoi solo il catalogo con in copertina Diletta Leotta? Naturalmente, mi basta il catalogo, non chiedo tanto. Va bene, non va sono bene. Così. Va bene. Poi va Melania, bene. Qualora volesse venire, è sempre benvenuta qui. Certo. Adesso quando disbriga le pratiche di uscita. Ma dopo il 20 gennaio, io so che fino al 20 gennaio lei è vincolata a stare con Donald, poi quando sarà libera anche dai suoi ruoli para-istituzionali potrà raggiungermi in Piazza Udine. Ho già avuto qualche. Ammiccamento? Sentore. Sì, no, sento che insomma. Sì, sì. Senti un po', ma a proposito di sentore, ma scusami, ma ieri cos'è successo che addirittura la Juve è andata come i gamberi al contrario? Cioè, avevamo Ma vogliamo chiamarlo Adinolfi? Scusa. Io se fosse Adinolfi non risponderei. Vediamo, per favore, ogni volta. No, avevamo detto lo chiamiamo dopo la partita, cioè domani, il 24, ma ieri è successo. Adinolfi non rispondere no, qui a Milan. Che no, sai quando uno pensa che... il macigno, vede la telefonata, alla telefonata del macigno. Che è la telefonata adesso del macigno Milan. Guarda, sono milanese, ma sono dalla parte di Adinolfi. Meno 7. Ma scusami, ma andate indietro invece che andare avanti. Basta con queste telefonate macigno di Alessandro Milan. Ma scusa, ma io ti ho chiamato perché molti ascoltatori mi hanno fatto notare che ti abbia lasciato a meno 4 e ieri invece andate indietro. Avete perso 3 punti, ma come sta storia? Ti conto che stasera potremmo trovarci a meno 10. E infatti, e tu ricordi che noi domani siamo in onda. Non è vero. Ma sì, te l'ho detto. Te l'ho detto che eravamo in onda, però era gustosa la cosa. A spiegare, com'è successo che siete a meno 7 di colpo? Non ce la faccio più, guarda. Io ho pure provato a rivalutarlo il Pirla, ma quello, porco Giuda, mi ha subito tolto Kulusevski, ha rifatto la formazione. Ma dico, io l'avevo imbroccata perché ogni 12 ore pure l'orologio rotto segna l'ora giusta. Ma perché mi hai mai fatto questa cosa? Vabbè, è colpa. È la vita di Pirlo che deve essere il problema. Forse è quello. Mario, che ne pensi, Leonardo? No, penso che è chiaro che la Juventus quest'anno punta tutto sulla Champions ed è lì che la farà avere soddisfazioni. È lì. Vedi Manera come infame, lo vedi come fai? Permetti anche a Manera di fare questi affondi che non sono da lui, che sì, lui è signore, perché lui dice non chiamiamo Adinolfi in onda, ma ieri mi ha riversato di messaggi. Domani chiamiamo Marione. Così fino a mezzanotte mi tempestava. Ricordati domani. La reazione di Nedved, voi non avete idea di cosa sto passando da 15 ore. Neanche gli adolescenti ingrifati. È vero. Perché con la Fiorentina, ragazzi, a Firenze. In casa con la Fiorentina, in quella maniera lì, guarda, una cosa proprio brutta. un mio carissimo amico Stefano, che saluto, grande tifoso viola, mi ha scritto, cioè ieri gli ho detto, gli ho scritto così, mi ha risposto, cioè vinciamo con la Juve, 3-0 con la Juve che protesta con l'arbitro, ma è una roba. L'Edward che lascia lo stadio per i rigori, capito, pure queste cose. Così. Dobbiamo soffrirle proprio tutte ormai. La tempesta perfetta. Vabbè. Ma avevamo Allegri, dico io. Avevamo vinto sempre tu. Ma ci siamo messi a fare questa cosa del bel gioco. Che poi giochiamo una chiavica da 2 anni. Ma perché voglio dire? Vabbè, ma Sarri è ancora sotto contratto. Esatto, chiamiamo Allegri di corsa. Sdraiamoci per terra e chiediamo pietà, perdono. Scusaci, Max. Torna da Livorno, molla la pesca, i cavalli, quello che c'hai, Ambra, e torna a salvare la Juve, capito? Non ce ne può più. E alla fine si aggrappano sempre anche lì a un grande milanista, perché ricordiamo Allegri soprattutto ha portato successo al Milan. Capito che roba, ma è una sofferenza grave. Marione. Domani ci ricomincia questa storia, no? Domani domani fai rispondere al Filippino domani. Il signore non c'è il signore fuoco. Ti tocca, noi ci proviamo, tu puoi sempre non rispondere, non è che sei obbligato a rispondere al telefono. Tu in genere sai che tra le 9 e le 11, se arriva una chiamata, potrebbe essere. Dico, ma se chiamano stanno per cercare di vendere qualcosa, mandali a quel paese come sai fare te. E te lascio mia madre, va. Anziana, pensa così. Che Natale fai, Marione? Te ne stai a casa? Vedi? Natale con la famiglia spaccata per questi altri benedetti del governo. Un pezzo in Romagna, quindi mia moglie, le figlie piccole in Romagna con i nonni romagnoli, io ho mia madre vedova da sola e quindi farò il Natale da figlio che doverosamente accompagna il genitore anziano e giusto, mi piace molto, francamente mi trovo nella fotografia tipica di tanti, di milioni di famiglie che si ritroveranno in condizioni del genere. Non è secondo me una condizione serena, non è un Natale sereno. Quest'anno è così. Speranze. Ci vedremo il Boxing Day del 26 dicembre per riprenderci un po'. Neanche il calcio di Natale ci hanno lasciato. ti mollano fino alla Befana. Vabbè, vabbè, però c'è il calcio del 23, insomma. Vabbè, ma può darsi che domani tra le 9 e le 11, non so, ci tocca. Ti faccio rispondere da Ranci. Vabbè, tranquillo, è un amico simpatico. Va bene, va bene. Fallo, parlare di cricket. Fallo, con lui, fallo. Beh, giustamente lui sarà appassionato. Ciao Marione, un grande ciao, abbraccio. Auguri, baci, ciao, ciao. Meno 7, e questo è, sì, è un po' un mistero. Nella seconda ora abbiamo tante cose da affrontare. Torneremo con il nostro amico che abbiamo conosciuto, allevatore ex Divisoni. Ti ricordi, Leonardo, che li hanno sterminati tutti? Poi avremo il tredicenne Francesco Barberini, è diventato famoso per la battuta Bruno Vespa sui pipistrelli, ma sai che lui è un pozzo di scienza sugli uccelli, sa tutto, fa birdwatching, è un ornitologo ormai... in futuro lo sarà, un futuro ornitologo. Proveremo anche a chiamare il nostro amico Mauro Bellugi, eh? Dopo spiegheremo tutto, dopo il giornale radio. Uno, nessuno, 100 Milan. Listen, baby. Al market sai, usa la testa, ed ogni pacco che ti arriva è una festa. Oggi mi sono messo in ascolto in ritardo, spero di non essermi persa la telefonata con Marione Di Nolfi, visto che ci tratta male l'ascoltatore. Sì, adesso richiamarlo sembrerebbe un po' troppo. Caro Leonardo Manera, eccoci qua. Ma è vero che domani vieni qui in radio? Sì, domani dovrei venire salvo imprevisti. Proprio fai tutto al contrario della logica. Cioè, l'unico giorno è il 24, zona rossa, codice, tutto su allarmi, posti di blocco. Compilerò l'autocertificazione, avrei dovuto venire oggi, ma poi ho ricordato che avevo un impegno alle 12 che mi ha reso impossibile poi essere lì e poi alle 12 da un'altra parte, quindi posso. E va bene, ti perdoneremo per questo. Oh, come iniziamo? Se vuoi non vengo nemmeno domani. No, dai. Evito anche domani, sto qui in panciolle, vabbè, no, domani non vengo, ti accogliamo anche con un regalo, Allora, signori, torna con noi e lo ringraziamo Giovanni Boccù, buongiorno Giovanni, come va? Buongiorno. Cosa devo dire? Ex responsabile di un allevamento di visoni, sì. Ex, sì. Perché ormai hanno ucciso tutto. Hanno ucciso tutto. Adesso stiamo facendo le pulizie, stiamo vedendo come smaltire il letame, la paglia, tutte quelle robe lì in sicurezza. Poi vedremo. Ecco, poi vedremo, perché ci avevano lasciati l'altra volta sulla questione che farete poi, insomma, se ho capito sono anni e anni di... Sì, 40 anni di lavoro, quindi... Cioè, ha già pensato cosa farà della sua vita, lei, i suoi figli, come vi riqualificherete? La mia l'ho vissuta, però i figli, i dipendenti, tutto il lavoro che c'è nell'Interland collegato, questo qua è tutto da valutare, tutto da vedere. Ho visto che in Russia stanno sviluppando un vaccino apposta per visoni, la Cina non si sogna nemmeno di diminuire o di uccidere qualche animale, si stanno preparando al mercato futuro che ritengono molto alto, anche perché il prezzo delle pelli sta lievitando notevolmente. E anche perché se c'è meno disponibilità sul mercato, molta, qui c'è il grande dibattito. Sa che anche Elisabetta Canalis, se non sbaglio, ha scritto a Conte dicendo basta, bisogna vietare l'allevamento. Ecco, la roba brutta che mi fa più dispiacere non è il fatto che uno pensi di usarle o non usarle, che dicono un sacco di bugie su maltrattamenti, su crudeltà, tutte queste cose. Questo che mi fa più male dentro. Poi ognuno è libero di pensare un prodotto, utilizzarlo o meno. Questo è un prodotto che è veramente green, è utile socialmente perché permette di utilizzare sottoprodotti della lavorazione, riciclare del materiale e allo stesso tempo produrre un elemento per la vestizione, per qualsiasi cosa, per il lusso, per quello che vuole, ma dà un beneficio alla società. Sono leggermente più piccoli, eppure vengono sterminati senza che nessuno si preoccupi. Sì. Ma perché eppure, il beneficio, quale sarebbe il bene? È così bersagliato. No, certo. Quello che mi dispiace molto è che dicono un sacco di bugie. Ma ci spiega quale sarebbe il beneficio per la società di un cappotto? Beh, avere un prodotto come si ha per la lana, come si ha per la seta, un prodotto green che non inquina, riutilizzabile, riciclabile e inimitabile. Come dire, la lana... Anziché usare la plastica. Sì, la lana non si ottiene uccidendo la pecora. Ecco. Beh, anche la coscia non si ottiene senza uccidere la gallina. Questo, sì, diciamo questo in teoria... Sembra un bene, diciamo, un po' più voluttuario, è per quello che crea rispetto al cibo. Su questo, se non ci fosse, cosa facciamo? Utilizziamo la plastica come suggeriscono? Si può utilizzare anche la lana, i tessuti. Possono utilizzare la lana, purché siano tessuti che non inquinano. Questo non inquina. Perché non usarlo? Sì, perché ci ha spiegato varie volte che poi i rivestimenti, i cappotti, gli indumenti che utilizzano anche la plastica poi non sono riciclabili, inquinano i mari. È indistruttibile, inquina il mare e poi non diciamo che è ecologica perché ha poco niente di ecologico. Vabbè, ma insomma questo argomento lo abbiamo già affrontato, tanto ognuno rimane della propria opinione. La sua idea, giustamente. Ristori ne avete avuto, Boccù? No, al momento no. Ma ne avrete? Hanno detto che prima bisogna finire tutto e poi se ne parlerà. No, anche perché è un imprenditore come gli altri, adesso fa qualcosa di legale finché è consentito. Noi per adesso stiamo sostenendo tutte le spese, sia per i dipendenti, sia per gli impiantisti, che per tutto, e speriamo poi di trovare una soluzione giusta. Sì, questo sicuramente. L'idea di quello che farà, vabbè, lei dice, io ormai un po' la mia vita l'ho fatta lavorativa. Quanti anni ha lei? 70. Quindi... una voce molto giovanile, ma insomma sapevo dell'età. Sono più che altro i figli sì, che faranno esatto. Tutti hanno famiglie e lo stesso anche tutto l'indotto che qualcosa faceva, ma anche i dipendenti, cioè sono stati specializzati. Non è facile formare persone per questo lavoro perché ci vuole molto tempo per dare l'abilità, per dare la conoscenza, per dare l'informazione a come si deve operare. No, ma perché me lo immagino, cioè se uno ha dedicato la vita a levare visoni, cioè non è che di colpo fa, è un settore così particolare, io non lo conoscevo, così peculiare, che non sarà facile riqualificarsi a fare qualcos'altro, però sì, staremo a vedere. Anche tutta l'impiantistica è fatta, dedicata, studiata per poter allevare questo tipo di animale che ha tutte le sue caratteristiche e è molto interessante. Non è un lavoro monotono perché il ciclo dura un anno, ogni periodo dell'anno c'è una fase diversa e non si deve sbagliare, bisogna stare molto attenti a fare il lavoro. No, ma è chiaro. Boccù, noi la ringraziamo, insomma buon Natale, poi vediamo come andrà e come evolverà la sua vita professionale. Grazie per essere stato con noi. Giovanni Boccù, ex responsabile di questo allevamento di visoni in provincia di vicino a Crema, a Capralba. Sono stati tutti sterminati, l'abbiamo raccontato nei giorni scorsi. Dopo il traffico invece avremo questo tredicenne, che Francesco Barberini, che scrive già libri, futuro ornitologo, appassionato di uccelli, di birdwatching. Adesso tutti l'hanno conosciuto per questa scena in TV in cui ha ripreso Bruno Vespa facendo notare che i pipistrelli non sono uccelli ma mammiferi. Ma al di là di questo è un pozzo di scienza a 13 anni, tra poco. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, le 10 e 16 minuti, caro Leonardo Manera, vogliamo accogliere, lo ringraziamo per essere qui con tutte le autorizzazioni, ovviamente i genitori, Francesco Barberini, anni 13. Buongiorno, ciao, Francesco. Ciao, ciao a tutti. Possiamo darci del tu, Francesco? Ti dispiace? Sì, certo, assolutamente. Che bello. È bellissimo sentire una voce giovane una volta tanto qui in trasmissione, dove parliamo tutti noi vecchi, anziani, tromboni, allora, ormai consunti dalla vita. Invece è bello sentire una Senti voce giovane che deve ancora risalutaci sbocciare. Bene, Francesco, risalutaci. Ciao, mi sentite? Benissimo, eccolo qua, l'entusiasmo. Allora, intanto l'abbiamo chiamato sul cellulare del padre, perché diciamolo chiaramente, Francesco non chiede il cellulare. Ma che sei pazzo? Sei pazzo? Beh, diciamo, allora, io sono un ragazzo come tutti gli altri, solo che ho altri interessi, non gioco alla PlayStation, non gioco a pallone, perché seguo la mia passione, ossia l'ornitologia, e non mi serve più di tanto un cellulare, ecco. Che bella questa cosa, bella. Allora, tra l'altro io ho sotto mano anche il libro che hai scritto per Salani, Che fine hanno fatto i dinosauri? Come erano veramente, come sono diventati? So che è una passione, ho letto che ti è nata due anni addirittura. Sì, questo è il mio quinto libro che scrivo appunto sulla mia passione, che è l'ornitologia, che mi è nata quando avevo 2 anni e mezzo e non l'ho presa dai miei genitori, ma mi è venuta guardando un film documentario sugli uccelli, Il popolo migratore. Ho visto tutti questi uccelli che migravano e quindi da lì mi sono innamorato degli uccelli ed è cominciata questa passione. Poi fin da piccolissima avevo anche un'altra passione, ossia quella sui dinosauri, e dopo ho capito che erano un po' la stessa cosa, perché i dinosauri sono ancora tra noi. Cioè già 5 scusa, libri, capisci Leonardo? Hai 5 libri, tu che non vuoi scriverne... Nella vita rischi di scriverne più di Bruno Vespa, proprio, che ne sfora uno all'anno. A proposito di Bruno Vespa. No, ma non solo, tiene conferenze. Oh, ci sono le foto con Mattarella, perché è vero che hai consegnato il libro anche al Presidente della Repubblica? Sì, è stato dopo la cerimonia, perché mi ha nominato il Fiere della Repubblica Italiana per meriti scientifici e divulgativi. Beh, questa cosa sì è stata molto, molto bella e mi ha comunque dato la forza per andare avanti e continuare a coltivare la mia passione. È stupendo, 13 anni. Raccontaci che cosa dobbiamo imparare dagli uccelli. Cosa hai imparato tu e cosa possiamo imparare dal bird watching, che so che è una tua grande passione, e dallo studio ornitologico? Beh, io come dico sempre, se la natura la conosci, la ami, e se la ami, la proteggi, e questo è molto importante. Io lo studio degli uccelli mi è servito molto, possiamo dire, perché fin da piccolo ho capito che molte delle cose che sapevamo sia sugli uccelli che sui dinosauri non sono proprio vere, secondo le ultime scoperte scientifiche, perché uno dei tanti gruppi di dinosauri che si sono evoluti sono proprio gli uccelli. E i dinosauri non erano come ce li fa vedere Jurassic Park. Questa è una scoperta scientifica molto importante, sì. Perché non erano mostri terribili, squamosi, ma invece erano molto più simili a degli uccelli di quanto pensiamo, perché i dinosauri erano agili, intelligenti e soprattutto piumati, avevano evoluto piume e penne che gli servivano, che li utilizzavano per tanti scopi, per le parate di corteggiamento, per mantenere il calore corporeo, e poi i dinosauri hanno utilizzato le piume anche per volare e si sono evoluti negli odierni uccelli. E poi lo studio degli uccelli mi ha fatto capire anche quanto l'uomo non è il conquistatore della terra. Noi non siamo i padroni del mondo, siamo anche specie di animali molto vulnerabili, perché per esempio 65 milioni di anni fa un asteroide cade sulla terra e gran parte dei dinosauri si estinse, ma non tutti. Sopravvissero non i più grandi come il Tyrannosaurus, ma alcuni piccoli uccelli che poi si sono evoluti nelle specie di uccelli che conosciamo oggi. Quindi ecco, vince il più forte, ma colui che si adatta meglio. È colui che e la rispetta. Dobbiamo crescere è colui che con la uno rispetta. Sviluppo sostenibile per il rispetto di tutti gli altri esseri viventi. Ovviamente i messaggi che arrivano di stupore, anche a dire: ma ha davvero 13 anni? No, questo lo possiamo certificare. Francesco Barberini, questo è come dire, con tanto di carta d'identità. No, è anche vero che adesso sei in una fase di passaggio, hai 13 anni, quindi sei proprio nel pieno dell'adolescenza. Quando arriva l'adolescenza poi molte passioni vengono meno, si abbandonano. Eccolo tu là, pensi che andrai avanti con questa passione oppure che mollerai e ti dedicherai ad altro? Così, no, vedi, no, per il tuo futuro? No, no, io andrò avanti, da grande voglio continuare a fare quello che faccio adesso. Sì, sia lo scienziato, quindi da campo, da laboratorio, sia il divulgatore, perché divulgare è importante, perché mi sono accorto che purtroppo quando una scoperta scientifica viene fatta non arriva immediatamente alle persone, però è importante proprio per trasmettere messaggi, per il rispetto della natura, per far riflettere. Questo è assolutamente giusto, e io credo per esempio che un volto così giovane e un eloquio così perfetto in un ragazzino, in un tredicenne, sia un bellissimo manifesto per divulgare la scienza, no? Spesso si è detto anche, non so, Greta Thunberg, non è che Greta Thunberg sia una scienziata, ma il suo volto, la sua battaglia serve a veicolare delle informazioni che altrimenti difficilmente riescono ad arrivare. Ma certo, perché allora, per esempio, anch'io faccio parte del movimento dei Fridays for Future. Non siamo noi che facciamo le ricerche, che studiamo e che ci inventiamo queste teorie, no, noi cerchiamo di aiutare gli scienziati, che sono tutti molto preoccupati, a diffondere queste teorie che sono molto preoccupanti, e infatti il problema dei cambiamenti climatici, insomma, e i disastri ambientali in generale sono un problema anche urgente, sì. Soprattutto. Pensa, Leonardo, essere il professore di scienze di Francesco Barberini, cioè, un'ansia pazzesca, uno entra in classe e ti vede un'ansia rinuncia il professore. No, no, io a scuola sto nel banco, non in cattedra. Ma ci mancherebbe, no, ma infatti, vabbè, te la devo fare questa battuta su Bruno Vespa, tanto la fanno tutti, insomma, la questione, no, che ha detto che i pipistrelli sono uccelli e tu l'hai corretto dicendo che sono mammiferi, corretto. Esattamente, vabbè, insomma, sei diventato famoso per questo, ma in realtà sei già famoso perché fai allora, altro. Diciamo che il mio lavoro è la divulgazione scientifica. Io cerco di far notare alle persone quelle notizie, quelle informazioni che sono vere e che dobbiamo sapere, e le altre che invece sono false. Sì. Ecco, quindi io non ho pensato che davanti a me c'era Bruno Vespa. Io semplicemente non posso tacere se qualcuno non dice la cosa corretta, le cose come stanno. Vedi, vedi com'è la vita a volte ironica. Tu sei tutto di uccelli, ma sei diventato famoso a causa di Vespa, che uccello non è. vabbè. Francesco, noi ti ringraziamo tantissimo. Allora, il tuo libro è Che fine hanno fatto i dinosauri, l'ultimo per Salani, ma insomma, davvero incredibile divulgatore scientifico a 13 anni. C'è un film, c'è l'ultimo film di Muccino, Gli anni più belli, dove uno dei protagonisti è proprio un grande appassionato di ornitologia. Sì. Magari se non l'hai visto, ecco, potresti, così, per le vacanze di Natale. L'avrà girato lui, avrà fatto il consulente scientifico. È il personaggio più positivo di tutto il film, credo. Caro Leonardo, adesso però abbiamo un momento anche, io sono molto grato alla persona che vogliamo introdurre. Come sapete, Leonardo Manera qualche anno fa ha lanciato questa cosa molto ironica dei prodotti Bellugi, ci abbiamo sorriso, ci abbiamo scherzato. Un giorno il grande Mauro Bellugi è venuto anche qui a trovarci perché un suo amico gli ha detto: ma sai che fanno la pubblicità dei prodotti Bellugi, scherzando su di te, eccetera. Abbiamo letto questa notizia ieri che ci ha un po' piombato nello sconforto, ma il grande arcigno Mauro Bellugi è qui. Mauro, buongiorno. Ciao Alessandro e ciao Leonardo, come state? No. Ascolta, quando ho sentito che parlavate dei dinosauri, ho detto adesso traducono me. E infatti è successo proprio questo. Mauro ci parla, tra l'altro, da un letto di un ospedale, ti rubiamo, sì, due minuti, abbiamo sentito, no, di questa notizia. Piacere, ragazzi, sì, un piacere. Abbiamo sentito questa notizia, sei su tutti i giornali dell'amputazione delle gambe. Ecco. Questa notizia è stata un po'... io cercavo di tenere l'ascolto perché sapevo che scatenavo poi, cioè, e questo poi io non avrei mai pensato scusa, ad avere tanti amici, no? Veramente il mondo, lo sai cosa vuol dire? Questo mi è bello, ha chiamato il mondo, una roba spettacolare, quindi se sapevo la dicevo prima. No, ma ti abbiamo noi, Leonardo, poi di tutti ti ha anche scelto per la tua forza, ora la tua capacità. Leonardo, le protesi Bellugi, vedi le protesi Bellugi. cosa fa? Sei un grande. Beh, insomma, Mauro, cosa complimenti dobbiamo... perché nonostante evidentemente sia un problema grosso, però la voce invece è sempre... No, sì, guarda, il problema è grossissimo perché cioè, quando arriva, ve la dico in due secondi, sì. Quando un professore vai all'ospedale, al pronto soccorso velocemente e le gambe mi sono diventate tutte nere fino al bacino, quando il professore, un mio amico che mi ha visto, mi ha detto: Mauro, cosa vuoi fare? Vuoi vivere o morire? Mi ha fatto questa domanda, capito? Allora, se vuoi vivere devi tagliare le gambe, se vuoi morire, è caso, io di morire non me la sento. Capito? Allora ho detto proviamo un'altra soluzione, però è un po' dura, ecco, però ragazzi, sono le cose della vita, uno deve risolverle, deve impegnare. Poi io vedo Zanardi, vedo quelli lì che con le protesi fanno delle cose pazzesche, certo. Quindi io devo solo camminare per andare al ristorante o per venire a trovare voi se mi invitate. Quando vuoi, quindi, quando vuoi. Quindi due passi con le gambe marziali bioniche ne potrò fare. Ma infatti anche questa è una bella, bella cosa, cioè l'idea di dire no, adesso metto le protesi come Pistorius, no? Che è diventato addirittura no, quello campione. Lì parte, quello lì io voglio, io posso fare al limite la pallavolo in carrozzina, la roba del genere, non, però ci sono delle protesi oggi che se tu, io l'ho viste, sono andato a vedere le vedute, ma sono incredibili, cioè c'hanno i piedi con sotto i sensori come tu fai a avere il piede vero, capito? E poi niente, non è che devo correre o fare le rovesciate, ma devo, te l'ho detto, andare dai miei amici a fare la partitina a carte. Ho 70 anni oramai, io non è mica un ragazzo. Oh, vabbè, se lo dici oramai, come voglio dire. Beh, da 70 anni cosa vuoi fare? Ma che cazzo. No, no. Comunque, ma no. Buoni, avere la fortuna di avere grandi amici vicino a te, quella è la cosa più bella che c'è. Però la bellezza ho scoperto e hai scoperto anche tu dei tantissimi amici, so che ti ha chiamato Moratti e tantissimi campioni, ovviamente Anastasi, il sindaco. Il sindaco. No, purtroppo Anastasi no. Anastasi, no, scusami, sì, certo. Beh, no, ma fatto tutti. Non pensavo, cioè, sono rimasto a bocca aperta, certo, ma cioè, facciamo dai, tutti. È Varotta, per dirti, anche Beppe Varotta, che, sì. Che non è che io conosco benissimo, però anche lui è stato gentilissimo. Beh, ma insomma, sei stato un grandissimo campione dell'Inter, no, della nazionale, del calcio italiano. Insomma. Il presidente Massimo è rimasto peggio di me quando gliel'hanno detto. Io non avevo coraggio di chiamare, l'ho chiamato io. E proprio è rimasto malissimo. Perché ormai della famiglia sua e dei suoi papà ne rimane pochi. Siamo rimasti pochi. Certo. Mauro, noi adesso quando... quanto tempo rimarrai in ospedale? Hai già... Ascolta, Leonardo, adesso sto facendo riabilitazione, no? Sì. Cioè, fisioterapista, mi fa fare degli esercizi, credo per una decina di giorni, poi dovrò scegliere il posto, e ne ho già individuati due o tre, dove, per esempio a Budrio, dove l'ha fatta anche Zanardi, sì. C'è questo posto fantastico, devo andare lì, c'è l'albergo, mi metto lì 10 giorni, mi fanno le protesi e poi dopo chi mi tiene più. Stupendo. E allora il primo appuntamento, non il primo, sì. Ma quando vorrai, da noi, voi, noi ti accogliamo a braccia aperte, Mauro. Ma mi fa un grandissimo piacere, ragazzi, veramente. Mi raccomando, tieni duro, grande Mauro. Un abbraccione e sempre bravi, ragazzi. Ascolta, digli a Leonardo, sì. Che dobbiamo fare adesso un business insieme. Però che non ci senta nessuno, facciamo proprio delle protesi quelle da... Ciao ragazzi, ciao grande Mauro. Un abbraccio a Mauro, ciao. Bellugi, ma guardate la straordinaria forza, Mauro, che ironizza, perché ti ricordi che un giorno lo chiamarono dicendo: ma sai che ci sono tutti i prodotti scherzosamente ispirati a te su Radio 24, e lui da lì è nato questo così rapporto, non possiamo dire di amicizia, gioco, ma di gioco, è venuto e viene qua e ci dice: devi fare la pubblicità delle protesi Bellugi. Un grande Mauro Bellugi, andiamo alla borsa. 1, nessuno, 100 Milan. per l'allevatore di visoni dispiace da un punto di vista umano naturalmente, ma da un punto di vista etico, ma di cosa stiamo parlando? Un ciclo di un anno e dopo? Caput? Ciao Mila, mi dicono da Perugia che Juve ha preso Cucumella, vero? Ciao Milan, ciao Leonardo, grande Mauro, grande calciatore, grande uomo, grande persona. Avete fatto contento un sacco di italiani per questa telefonata. Grazie ragazzi e buone feste a tutti. Sei grande Mauro Bellucci, è vero, lo spirito di Mauro Bellucci che, ripeto, ha dovuto subire l'amputazione delle gambe. Lui, se ti ricordi, Leonardo ci aveva già raccontato che soffre di questa malattia mediterranea, perché essendo nato in Maremma c'è una malattia molto particolare di cui soffre anche sua mamma, e è un po' una cosa che si porta, e unita al Covid questa cosa, insomma, come dice lui, ha portato a una situazione di degenerazione, ha dovuto subire l'amputazione delle gambe. Però hai sentito che spirito, caro Leonardo? Sì, davvero, insomma, complimenti, e ci fa piacere anche averlo sentito, per la verità, no? Sì, aver parlato con lui e aver visto che tutto sommato sta reagendo bene. E quando vuole noi ovviamente saremo qui pronti. Allora, le 10:37 minuti, noi abbiamo richiamato Nando Timoteo. Ancora? Vabbè, ma è colpa sono tua, contrario. Leonardo. Ma sono è colpa molto tua. Contrario. Ma è inutile prima. Anche lui. Mi stiamo facendo una gran pubblicità. Mi delle riversa... marchette vere e proprie, ti darà dei soldi. Ma mi riversi di messaggi dicendo invita Nando. Io sono contrario dopo... perché è una persona sgradevole, spiacevole da evitare a tutti i costi. Questo lo conferma al 100%. Però adesso lui. Energia tanto... pura, Leonardo Manera. Quanti di quelli che ascoltano Radio 24 hanno poi visto la sua intervista? Esatto. Perché, spieghiamolo, perché la scorsa volta nel teatro, poi Filodrammatici, il buon Nando ha invitato. Posso dire con riluttanza che è stata la puntata nella quale hanno partecipato di più, ecco. Porca miseria, mi dispiace non tantissimo. C'è stata poi quella successiva che ha avuto ancora più gente? No, ho partecipato perché un conto è collegarsi, altro conto invece è partecipare, quindi... con insulti parlo attivamente, purtroppo non lo hanno insultato abbastanza, Alessandro, perché tu non li educhi abbastanza. Tu dovresti proprio educare, dovresti fare un corso, ed oggi rovesciamo addosso a Leonardo tal cosa, tal improperi, sì. e via dicendo. Resta il fatto che noi stiamo facendo pubblicità gratuita qui a Nando Timoteo. No, è troppo ben voluto, è una cosa discutibile. No, tanto è troppo ben voluto, Leonardo, e quindi non riusciamo. No, allora, però Nando, allora, siccome c'è un'altra serata che è questa sera, però il buon Timoteo questa volta ci siamo attrezzati, perché buon Nando Timoteo fa degli straordinari, come li hai chiamati i tuoi telegiornali un po' secchi e veloci? 2 minutes lame, two che minutes sarebbero se la tira due un po' minuti un di... No, questo me l'ha dato mio figlio che ha fatto il linguistico e mi ha spiegato che sarebbe 2 minuti pallosi, questo sarebbe. Vabbè. Questo è. Allora, noi ti abbiamo trovato una base stavolta, l'altra volta abbiamo improvvisato. Posso dire? Sì. È un'anteprima assoluta perché il video esce stasera. Quindi voi avete l'anteprima. Ma il video come facciamo? Il radio? Il video esce sul suo canale stasera. Sì, i miei 15 follower sono belli che vabbè, ma dopo poi vengono anche, diciamo che alcune delle sue battute vengono sempre riprese anche da Striscia la Notizia, di quelle che mette nei suoi video, poi almeno 2-3 battute, non si sa perché, quindi invito Ricci a smettere anche con queste cose qua. vabbè, allora partiamo con Antonio la base. Ricci, basta con basta chiamare Timoteo, basta Antonio Ricci. No, vai Nando dopo la base. Vai. Bene, buonasera e benvenuti, anzi buongiorno vista l'ora. Scossa di terremoto a Milano, ma per Zangrillo è stata solo una lezione di Zumba. Con la variante inglese del virus aumenta il lavoro per i negazionisti. Adesso è l'Europa che vuole uscire dal Regno Unito. Primo paziente italiano con la variante inglese del Covid, era l'unico che rispettava la fila per il tampone. Conte, nei festivi e prefestivi l'Italia sarà tutta in rosso. Parla dei conti. Dopo la conferenza stampa di Conte, le sue parole sono state declassate a sciarada. Google va in crash, impietoso il resoconto, perché per qualche ora ha funzionato come il sito dell'INPS. Il sangue di San Gennaro non si è sciolto. Per come sta andando il 2020, è già tanto che nel sangue di San Gennaro non abbiano trovato il colesterolo alto. Conte per il Natale ha deciso di mescolare bastone e carota. E che pranzo di merda! Salvini, il giorno di Natale pranzerò coi clochard. Gli immigrati li ha già mangiati tutti. All'inizio ci sarà una puzza incredibile, ma dopo un po' i senza tetto non ci faranno più caso. Macron positivo al Covid, e questo è solo il secondo avvertimento di Augias. Se il governo chiude, Salvini vuole riaprire tutto. Se il governo riapre, Salvini vuole richiudere tutto. Fossi in Conte, lascerei tutto socchiuso e così vediamo. Renzi, Italia Viva sta facendo una battaglia per le idee, prima o poi qualcuno di loro ne avrà una. Sempre Renzi sul governo, non si può cambiare idea ogni 3 giorni, Italia Viva punta ad abbassare la media a 2 ore. Il CTS consiglia le mascherine anche per il pranzo di Natale, è l'unico sistema per non ingrassare. E da Nando Timoteo è tutto, a voi la linea studio. Bravo Nando, è bello perché poi è bipartisan, sistema tutti qua e là, pam pam pam pam pam, Renzi, Salvini, Conte, Berlusconi. No, Berlusconni no, è perché così va su Striscia la Notizia. Perché, cioè. No, non è vero, perché allora sì, c'è da dire che così, Berlusconi lo hanno anche passato un paio di volte, dipende, perché questa settimana non c'erano notizie che riguardavano. Vabbè. Comunque Nando, ecco, questa sera, tu sotto Natale ti metti a lavorare. È l'ultimo appuntamento, questa sera, davvero l'invito è a partecipare numerosi come avete fatto l'ultima volta. Ridacci gli estremi, è facile, vi dovete collegare al sito del teatro, che è www.teatrofilodrammaticitreviglio.it. All'interno troverete il link dove naturalmente mettere i vostri dati e pagare la bellezza di 2 euro. Però sappiate che qualora non vi fosse simpatico io, non vi fosse simpatica Deborah Villa, sappiate che contribuirete a far del bene, perché la metà vanno all'associazione La Quercia di Mamre, che si occupa di dare da mangiare ai più bisognosi a Treviso, nei 18 comuni. Perché oggi alle 21 Deborah Villa è, come dire, sarà a fianco a te, sarà l'ospite, sì. E vabbè, collegatevi, ripeto. Possiamo dire in anzi potremmo fare una bella promessa, così almeno te la tolgo, ci sono anche i testimoni. Se dovessimo andare avanti nel 2021, ammesso che si arrivi al 2021, perché io del 2020 ancora non ho smesso di fidarmi, tu verresti a fare l'ospite? Ci sono, io faccio ridere poco, zero anzi, ma ci sono. Posso quando dire vuoi? Che questa cosa qui me l'ha sconsigliata vivamente Leonardo Manera. Ovvio. Sì, ho detto non farlo venire Alessandro Milan, che viene controvoglia, dice di sì, poi comincia a lamentarsi. No, ma non è vero, non è vero. Sì, mi tocca andare fino a Treviglio. Treviglio, i figli. Non è vero. Sì, allora così, basta che non me lo metti in una giornata di campionato di calcio e poi ci mettiamo d'accordo sulla data e vengo. Ma promesso, vengo. Questa è una bella promessa. E poi voglio dire, quando ti ricapita di seguire così tanto la tua squadra, visto che vi trovate in una zona di classifica che non è consona alla vostra squadretta. Sì. Ha parlato lo Juventino, anche qua. Troppi Juventini. Grazie Nando, un grande abbraccio. Un abbraccio, buon Natale a tutti. Buon Natale alle 21, collegatevi col Teatro Filodrammatici Treviglio.it perché Nando Timoteo e Deborah Villa questa sera vi faranno sorridere e faranno anche beneficenza. In questi tempi è un bene. Potete collegarvi anche adesso, ovviamente, e prendere a 2 euro il biglietto per questa sera, così ve lo vedete da casa, tutti tranquilli e sereni, pronti a ridere. Vai traffico. 1, nessuno, 100 Milan. As the sun comes up, as the moon goes down, these heavy notions creep around, it makes me think long ago, but somewhere there I lost my way. Everyone walks the same, expecting me to step the narrow path they've laid. They claim to walk unafraid. I'll be clumsy instead. Signori, alle 10:48 minuti, come sempre viene un languorino in questo momento della giornata perché faccio sempre la colazione scarsa, e allora il nostro chef emozionale Bernardo Ferruccio Ronchi Baronchelli, eccolo qua. Allora, buongiorno. Vedi che non cerco di parlare scorsa, come lei un po'. Allora, non avrei voluto tornare, ma la settimana scorsa le ricordo che mi ha impedito. Sì, ci sono 7 minuti e mezzo adesso, tutto il tempo. La settimana scorsa lei mi ha impedito di proseguire, sì. Ecco, quindi mi sono visto costretto a tornare per non deludere i miei estimatori, i miei adepti. Quindi Bernardo Ferruccio Ronchi Baroncelli, chef emozionale, c'è chi mi chiama eccellenza, meraviglia, qualcuno mi chiama anche Loch Ness perché sono una leggenda. Addirittura, una leggenda. Ecco. L'altra volta Harry Potter, se non sbaglio qualcuno, Loch Ness. E Dio buongiorno, c'è, Loch ricordiamo. Ness. Dio c'è. Naturalmente, ricordo ancora la mia dimora culinaria, Desco di Nicia, Pannocchio di Castelbiondo. Saremo chiusi, purtroppo, riapriremo solo dopo le feste, come molti altri purtroppo in Italia, per fortuna. Faccia però l'asporto, così posso... un bel hamburger d'asporto. Ma per carità, l'asporto, la cosa che si addice a lei, l'asporto, il recipiente di cartone, la pizza asporto. Guarda, mi viene voglia già di riattaccare. No, stavolta sarebbe colpa sua, il tempo c'è. E quindi... Allora, l'unica cosa buona, essendo chiusi, è che posso rimanere a casa con la mia vestaglia in seta, le mie babbucce di madreperla. Allora, riapriremo presto e sarò pronto ad accogliere nuovamente i miei avventori, che quando vengono da noi però, ecco lo dico subito, se venite da noi dovete lasciare a casa le vostre certezze, le vostre frustrazioni. E soprattutto i vostri cani. Ah, lei non accetta cani? No. Il mio non è un ristorante, è un'esperienza immaginifica per nutrire l'anima. Vabbè, un cane non posso nutrire l'anima se intanto sto mettendo i croccantini in una ciotola a forma di osso, va bene? Lasciate a casa il vostro cane con un dog sitter, per carità. È triste, è banale, va bene? Eppure anche il cane paga 300.000 euro più il coperto, ma lo portano, lo vogliono portare lo stesso, va bene? Non li accolgo volentieri. Non li accoglie. Basta parlare di soldi, però è volgare. Parliamo della mia arte. La mia arte. Si calmi. Vuoi mangiare delle zucchine al vapore? Vai all'osteria all'angolo che riscalda quelle del giorno prima. Noi come le cuciniamo le zucchine al vapore? Vediamo. Prendiamo le zucchine, le portiamo alla spa, le lasciamo 3 ore dentro al bagno turco. E poi sono pronte. Rida. No, è un metodo un po' insolito, ecco. È abituato ad andare in trattoria e allora ride, ride con quella risata grassa. Oh, che divertente. Ma lei comincia a mangiare qualcosa di servito bene. Sì. Allora, ecco. Queste sono le vere zucchine al vapore. Quelle da lei. Ma ora lei. Sì. Ho sentito invocare il mio nome e sono qui a donarvi una delle mie creazioni. Bene. Il titolo è quello dell'altro giorno, La danza della vita. Ah, ecco, ha riciclato la creazione. Ha riciclato, è lei che non mi ha fatto terminare l'altro giorno. Va bene, la danza della vita. Mettiamo i puntini su lei. Sì. Partiamo dagli ingredienti. Un uovo. Un uovo. Di una gallina di buona famiglia. Ma possibilmente con degli avi nobili. Va bene. Una gallina. No. Un uovo di una gallina di buona famiglia, possibilmente con degli avi nobili, okay, è diverso. Okay. Ed eventualmente, volendo, un cristallo di zucchero. Un cristallo. Piccolo, piccolo proprio. Prendiamo l'uovo, adagiamolo in una ciotola capiente e rimbocchiamoci le maniche del nostro maglione di cashmere. Se avete paura di sporcarvi, potete mettere un maglione di cashmere di un colore che non vi piace più. Adesso prendete la frusta e iniziate a sbattere l'uovo con movimenti del polso, prima lenti e via via sempre più veloci, in senso orario e in senso anti-orario, per finire con un colpetto deciso e alla fine buttate il vostro cristallo di zucchero. Ma cos'è? E voilà! Un uovo sbattuto. Voilà. Un uovo sbattuto. No! No! No! No! No! No. Si tratta di una riflessione sull'origine della vita che culmina in un ricordo dei nostri riti ancestrali di fertilità. Mamma mia. Questo sembra banalmente, lei lo definisce uovo sbattuto, ma è tutt'altro. È solo senza zucchero, peraltro, uovo sbattuto. C'è un cristallo, c'è un cristallo. Sì. Inutile riempirsi di zucchero, perché come è dolce. Oh, no. Che bello, è dolce. Ma vabbè, però, che dolce. No, però c'è un cristallo, vabbè. Un cristallo. E questa è la danza della vita. La danza della esattamente. Vita. 240.000 euro. Ecco, dopo appunto, Natale. Volevo sapere. Abbiamo fatto 10.000 euro in meno. Sì. Invece di 250, abbiamo fatto 240 perché sappiamo che dopo le feste tutti abbiamo qualche difficoltà economica. Ma lei allora, li prende, non so, i ticket restaurant. Mamma mia, per carità, i ticket restaurant. Scusi, io ho da parte un po' di ticket restaurant. L'ultima volta che ho visto un ticket restaurant era in un Risto Pizza sulla statale. E allora gli sconti comitiva? So, viene... Guardi, ecco, no. Mi viene voglia di, veramente di non partecipare più alla sua trasmissione. Chef, vi maestro. Porto anche i saluti da mia moglie Maria Assunta Benedetta Bernarda in Tingolo Paciulli e mi permetto di augurare a tutti buon Natale mangiando però ecco, in modo secondo decente. Me sua moglie con quei nomi, una gallina con gli avi nobili dovrebbe recuperarla Ecco bravo, faccia anche ironia, no, faccia non sessismo era, non era né ironia né tantomeno sessismo, no, non era bravo, sessismo. Bravo. A questo siamo arrivati, al sessismo no. Oh, ma non, di c'era, mia moglie, non c'era alcun sessismo. Mia moglie è contemporanea. Con tutti quei cognomi, immagino che abbia delle origini. Ecco, fa paragoni tra mia moglie e la gallina, no, e poi dice che non è sessismo. No, no, bravo, che già, bravo. Che già, mi dimostrerò che, me. Che già Mauro Corona, nostro amico, per una frase del genere, un po', non c'era appunto. Alcun paragone. C'era un paragone con i cognomi e la nobiltà, radio. Nobiltà di sua moglie. Dovrò rivolgermi ai è lei che ha parlato radio. Di gallina. Va bene. No, guardi, adesso cerca di sconoscere quello che ha detto pochi istanti fa. Siamo alla follia. Siamo alla follia. La e riceve la notizia da parte dell'avvocato di mia moglie. Va bene, lo attendo. Antonio Andrea Giovinacco Marini Lustolo. Immaginavo, chissà perché non me lo immaginavo, tipo Antonio Scipioni, punto, ecco così. Va bene, a domani, noi saremo qui in diretta, ciao.